Io mi aspettavo che fosse una formula ampia di assoluzione, non mi immaginavo così. Io non ho pagato neanche un centesimo, e lo dovete sapere, voglio gridarlo, che praticamente io non avevo i soldi per pagare l'avvocato. Gli avvocati, io dovevo nominare un avvocato di ufficio. Ho visto l'elencazione di cifre che sono enormi. A me mi manca pure poco per vivere, dove, come posso far estinguere queste cose? È una cosa inaudita, non lo so. Vi voglio confessare, meglio di me chi lo sa, chi lo sa. Perché dovrei, non lo so, non sto fingendo, sto dicendo le cose vere. Tutte le persone che sono state vicine, anche spesso, anche dei magistrati che fino all'ultimo momento mi hanno espresso solidarietà per una vicenda inaudita. E questo oggi è l'epilogo. Speravo fosse un giorno e si poteva iniziare a vedere la luce. Voglio ringraziare tutti i testimoni, tutte le persone che sono state solidali in questi anni. Un momento difficile per me, che mi viene difficile, però la dignità come cittadino calabrese così non mi fa dimenticare la riconoscenza che devo avere per tutti quelli che si sono occupati. Aspetti l'appello adesso. Non lo so. Ci sono momenti nella vita che bisogna fare ricorso a quello che c'è dentro come forza per farsi una ragione per continuare, ma io non so come vivere senza avere interessi sociali, interessi politici. Praticamente questa sentenza mi mette nelle condizioni che sono per sempre come marchiato da cose che io non ho commesso per l'altro. È un'enormità di quelle cose. Ma noi viviamo in una terra che è praticamente controllata e dalle mafie, dalle famiglie. Io non lo so se è una cosa, gli scandali che ci sono nella sanità, spesso con la complicità di un sistema di potere che protegge poi alla fine. Mimmo, avevi detto che qualsiasi fosse stato il verdetto avresti continuato. Alessia, in questo momento no. C'è una forte, come devo dire, emotività, dovete comprendere. Quindi ho da sicuro dico le parole e sbaglio, non lo so che cosa. Devo capire bene con gli avvocati. Anche nella mia partecipazione alle elezioni regionali a questo punto, come devo dire, non lo so che cosa succederà, che una secondaria viene. Meno male che io gliel'avevo detto a tutti che c'era questa ipotesi e non volevo essere un problema per nessuno. Anche il magistrato si è detto no, per noi la tua storia giudiziaria è una bandiera.